vista così sembrerebbe una dichiarazione quasi innocente, perché appunto se gli operai, essendo ancora il secondo paese manifatturiero, no, più industrializzato d'Europa, non ci sarebbe nulla di strano. Ovviamente c'è sempre l'altro lato della medaglia, che è quella suggerita, se vogliamo, da Confindustria Cuneo, per cui è inutile scegliere una formazione, quindi scolastica, il sapere, la conoscenza, proprio perché quello che chiede il mercato è l'operaio specializzato. Partiamo dal fatto che, appunto, ribadiamo ancora una volta, la conoscenza e il sapere non hanno nulla a che vedere col mercato del lavoro, ovvero possiamo anche essere gli operai, però non sottraeteci il diritto, se vogliamo anche democratico, della conoscenza. Dall'altro lato, questo ormai è un mantra, una retorica che va per la maggiore, sempre riguardo la scuola, ok, quindi Confindustria è disposta a un investimento forte sulle scuole e scuole professionali, visto che adesso davvero sono in disuso e destrutturate, in cui il disinvestimento proprio in macchinari, cioè una volta, come diciamo sempre, non vogliamo tornare al passato, però c'è davvero una netta differenza tra quella che era una scuola tecnico-professionale volta verso, se vogliamo, il settore manifatturiero, con quindi i macchinari all'avanguardia, eccetera. Adesso non ci sono più i macchinari su cui istruirsi e formarsi anche tecnicamente, né nelle scuole né tantomeno nelle aziende italiane, perché sappiamo benissimo che il tasso di investimento è scarsissimo, sappiamo benissimo che l'innovazione dei processi, quindi anche dei macchinari, è abbastanza basso. Rimane poi l'altro tema: a quali condizioni dobbiamo farli operai? Certo, che è un tema non di poco conto. E a proposito di condizioni a cui dobbiamo fare gli operai, la notizia di oggi è che Amazon vuole, come dire, mettere il braccialetto elettronico ai dipendenti per controllarli meglio. Tutto questo alla vigilia di un vertice. Domani, appunto, ci sarà un vertice al ministero in cui si cerca di mettere a sedere Amazon e farli trattare con i lavoratori, perché con i sindacati, insomma, perché sappiamo che questa multinazionale non lo accetta. Diciamo allora che la notizia è ambivalente, nel senso che Amazon già usa i braccialetti che monitorano secondo per secondo l'attività e quindi misurano anche in questo senso, e attraverso questi strumenti tecnologici, la produttività, l'efficienza dei lavoratori, che ovviamente incorrono anche, se vogliamo, in delle ammunizioni, nei licenziamenti, nel momento in cui non rispettano, no, quella scientificità dei movimenti, del tempo e così via. Quello che chiede oggi Amazon, cioè in realtà quello che fa, è che si avvia a brevettare questo strumento e di conseguenza la sua poi futura commercializzazione, e di conseguenza molti altri magazzini della logistica potrebbero cominciare, da un lato, ad acquistare tramite Amazon, no, perché ha il brevetto e quindi la proprietà di questi strumenti di controllo dei lavoratori, e dall'altro lato ad utilizzarli. Ma non è che non sapevamo, al MISE non sappiano, che i braccialetti e il controllo sui lavoratori individualizzato è già presente dentro Amazon? Sì, oggi tra l'altro Polletti su questo tema però ha ricordato che, come dire, i sistemi di sorveglianza dei lavoratori devono essere frutto di accordi sindacali, che, come possiamo immaginare, ad Amazon non ci sono, però. Esatto, questo è un sistema che già c'è dentro Amazon. Non capisco perché Poletti si svegli sempre abbastanza in ritardo, e soprattutto non si è mai posto di andare a guardare e controllare cosa successe dentro Amazon, nonostante ci sia scritto, nonostante programmi televisivi, nonostante le proteste, se vogliamo, proprio nei magazzini Amazon. Quindi diciamo che è un po' casca dal pero, ma in modo abbastanza strumentale per rivendicarsi forse qualcosa sotto la campagna elettorale. Francamente non si capisce un atteggiamento del genere. Ecco, ma in molti proprio stanno commentando questa cosa dei braccialetti, rievocando una parola, schiavismo. Insomma, siamo ormai allo schiavismo, e c'è anche chi lo sostiene apertamente, o, come dire, in un modo che non si capisce se è provocatorio o no. Ad esempio Enrico Verga sul Sole 24 Ore ha proprio scritto un pezzo in cui sostanzialmente si chiedeva: ma allora delle due, non è meglio di tornare, reintrodurre la schiavitù, intesa non con le catene e le frustate, ma di fatto con una schiavitù che stiamo già vivendo? Questa era un po' la tesi. Sì, diciamo che l'articolo di Verga, così come dice lui stesso, era abbastanza una provocazione. Io francamente la trovo un'affermazione, una provocazione di pessimo gusto, visto appunto che condizioni di paraschiavitù ne viviamo già. Forse dovremmo preoccuparci di denunciare la mancanza di diritti, no? Perché lui diceva: ma una volta almeno i diritti alloggio erano garantiti ai lavoratori e quella che è la libertà dell'individuo, che diventa anche soggetto democratico, partecipi attivo delle scelte, delle decisioni dentro e fuori i luoghi di lavoro. E si riallaccia un po' alla questione di prima, no? Ragazzi, siate degli operai, fatevi disciplinare per pochi spiccioli, però la cultura, la conoscenza, il sapere, la visione del mondo devono rimanere nelle mani soltanto di un'elite che poi vi dirigerà, perché voi sarete, cioè, di fatto bestiame. Ecco, allora, alla luce di queste notizie, se vogliamo trovare un filo rosso, qual è la considerazione del lavoro nel nostro paese? Ma abbastanza deleteria, ma anche denigratoria nei confronti proprio dei lavoratori, appunto, cioè vengono non più trattati quasi come esseri umani, no? Cioè, carne da macello da un lato, e appunto, no, oggetti ad uso e consumo, no? Leggiamo anche oggi, ovviamente, no, a Fico, gli interinali, beh, non sono stati rinnovati, perché certo non si può intaccare il profitto nei momenti o in quelle settimane o mesi in cui l'affluenza dei clienti diminuisce, va bene, no, vale bene una messa, cioè non rinnovare in questo caso i contratti di somministrazione. C'è davvero una percezione che è al limite, appunto, del lavoratore, di che cos'è la forza lavoro, anche appunto come comunità, se vogliamo, e soggettività politica. Certo, è disarmante. Ecco, ma oramai questa retorica non è stata introiettata anche dai lavoratori stessi? Non tutti, fortunatamente non tutti. È vero che c'è un'elevata assuefazione, appunto, la naturalizzazione, se vogliamo, dello sfruttamento, come la definisco spesso io. Dall'altro lato però è vero che la gente riconosce che si trova in condizioni di enorme sfruttamento, rapace, violento, in certi casi. Bisogna però innescare, se vogliamo, proprio attraverso la cultura, attraverso quella che è proprio, cioè, dare un'alternativa, perché tante volte dici, ma ormai lottiamo per non farci togliere i diritti, ma questi lavoratori di cui abbiamo appena parlato è come se non avessero nessun diritto, quindi, cioè, far vedere che c'è altro, no? Che possa essere altro. Dalla schiavitù si è usciti e non è che stavano messi meglio, ci vuole però appunto quella forza, se vogliamo, quella coerenza di gettare un po' l'amo dall'altro lato del, no? Del tracciato e così via.